in diretta su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici di CRM Happy Wake Up. Inizio un po', è un po' piano appunto perché penso che alcuni mi stanno svegliando, alcuni ancora, benché siano svegli, devono ancora carburare un po' con la mattina. Infatti questa mattina del 18 marzo 2013, oggi è lunedì, inizio settimana, e si sa che alzarsi e iniziare la routine di tutti i giorni è un po' più difficile del solito, ma noi di CRM Happy Wake Up siamo qua appunto per sostenervi, darvi una mano e iniziare questa giornata in allegria, anche se il tempo ancora non lo permette. Ieri ha fatto una bellissima giornata, devo dire, abbiamo accolto un bel po' di sole e adesso invece fischia il vento abbastanza, il vento di scirocco, quindi subiamo un po' di caldo con un bel po' di vento. Ma noi intanto ci ascoltiamo una bellissima musica, la bellissima musica di CRM Happy Radio, e ci svegliamo e ce la raccontiamo un poco, ecco. E iniziamo con Carly Rae Jepsen con This Kiss, quindi tanti baci, tanti abbracci a chi ci sta ascoltando questa mattina. E rimanete con noi con CRM Happy Wake Up. Details. We both forgot to mention. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Party people say, party people say. This morning thinking about the old me, when I was feeling like Miller Lite and O.E. But now I ride on some conscious, I'm getting bread while I toast to my accomplishments. Only one like I have a problem with is myself. That's probably why my only competition is myself. From today to tomorrow, the doctor just rocked to the same drum. The past, no, I ain't forgot where I came from. I got the club rocking, I got your girl jockey. Me and Phil still in this. We going the distance, let you party people, come on. On the church floor, break it better. I'll push the dough on the liquor store, see where it gets you. For me, I got to be on top. I said, me, I got to be on top. I got the street on lock. I'm an automatic pilot. Ain't nobody stopping me. Growing up in poverty, ain't feel my heart with loss. Ride out on high. I dump to get them off of me. I'm a leader. Look to see the natural born boss of me. They're from Bel-Air, I'm from the bottom. Soon as I spot them, I get the drop and I got them. I cock my face and they got them. It's dinner time when the nine come out. It's off with the chain, off with the brain, move brain. Off with your brain now. I said I'd get rich or die trying. I did it, good luck, sucker, trying to stop my shine. Nothing matters but the music. Music my first love. We paper chasing, I'm always coming in first. Cause I'm built for it, see I'm better under pressure. I react like a maniac when I'm coming to get you. I got the win, and watching, Dre watching, my son watching. That losing ain't an option, I'm sharp, I'm on point. Day for my 4 point, pulling out my pain. I'm back on my A game, I'm focused. For me, this is just another victory. Except that I'm stronger than the ops now, mentally. Questo è un nuovo giorno, come dicono i 50 Cent con Alicia Keys, per iniziare la settimana o per quindi proporsi qualcosa di diverso che fa anche bene, quindi pensare qualcosa di diverso da quello che pensano gli altri e proporsi, mettersi davanti i propri obiettivi e saperli affrontare da sé con le proprie soluzioni, con le proprie idee, fa sempre bene. Abbiamo ricordato poco fa e lo ricordiamo ancora tuttora. E ricordiamo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me, potete inviare un sms al 335-56-37-251, telefonare allo 0921-92-32-92. E poi ci sono anche notizie culinarie, perché noi parliamo un po', partiamo dall'amore, dalla psicologia, anche alla cucina, perché adesso hanno inventato uno spray commestibile con cui colorare i propri piatti di oro e di argento, ma anche di blu e rosso. Gli spray sarebbero assolutamente inodori e insapori e possono essere usati su qualunque cibo. Uno degli ideatori spiega che è grandioso quando ti trovi nel piatto non solo una bistecca, ma una ricoperta d'oro. È più allettante, devo dire. Nonostante l'idea possa lasciare un po' perplessi, il successo è apparentemente molto elevato, con la società che produce gli spray che fa sapere che questi sono il prodotto più venduto. E adesso Linkin Park. Take me down to the rhythm band. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. show me how to be whole again. Fly me up on a silver wave, past the black where the sirens sing. Warm me up in a nova's glow, and drop me down to the dream below. 'Cause I'm RM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. This is International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. Oh, I had the time of my life, rolling like a stone jet, set a jet lagger. We ain't messing with no maggots, messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple, I'm the Mac Daddy, y'all. Haters better step back, ladies, download your app. I'm the party application, rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cause I'm having a good time with you, I'm telling you. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear, boy, this is true. Questi erano i Black Eyed Peas, The Time, Dirty Beat, CRM, Happy Wake Up. E appunto abbiamo riconosciuto la colonna sonora di Dirty Dancing, fatta un po' a dance naturalmente, un po' per riportarla ai tempi nostri, ma sempre ricordando quel bellissimo film con Patrick Swayze e poi l'altra attrice non me la ricordo come si chiamava, comunque che appunto poi non si è vista più tanto nei film successivi americani, però è stato un bellissimo film che tutti ricordiamo, che tutti rivediamo ogni volta che lo ripropongono in TV, anche perché parla della semplicità dell'amore, appunto connessa alla passione per la danza. Poi naturalmente c'era il fatto dei genitori che appunto non erano d'accordo, soprattutto il padre di lei, perché lui era più grande e lei era piccolina, e non mi ricordo neanche come si chiama lei nel film. Comunque vabbè, già si inizia così lunedì, figurati poi come arriviamo al venerdì a ricordarci le cose. Comunque, in una notizia invece riportata sul web si parla appunto della differenza di età e come questa può essere può dare problemi alla coppia oppure no. E infatti troviamo sempre coppie con partner coetanei o età differenti, ma qual è il segreto per un'unione felice e duratura? Si basa sulla differenza di età oppure no? Uno studio affrontato in America, sembra appunto, non mi ricordo in quale, non c'è scritta l'università al quale è stato fatto questo studio, e parla appunto di questa differenza di età che può condurre quindi a relazioni poco felici. Però un sondaggio fatto a 2000 adulti di entrambi i sessi invece emerge il fatto che per far funzionare una relazione tra lui e lei devono esserci una differenza di 4 anni e 4 mesi, l'ideale per far funzionare, quindi una differenza ideale di età per far funzionare una coppia. Bene, io non l'ho letto, magari chiunque può essere d'accordo o no su questa cosa. La mia particolare visione è che appunto non c'è un'età, appunto come si diceva l'amore non è età, e secondo me si basa sempre sull'affinità di carattere, sulla volontà di andare l'uno incontro all'altro, ma l'età poi non conta, perché comunque vediamo sempre un po' siamo sempre fanciullini dentro, anche se abbiamo 40 anni, anche se abbiamo 50 anni, e quindi possiamo sempre conformarci magari al carattere del partner in modo molto abbastanza facile. E quindi prendiamo atto di questo studio, di questa probabile differenza di età che comunque comporta un'unione più piacevole tra marito e moglie, tra due compagni. Però ognuno naturalmente può scegliere, può avere una svariata scelta di appunto scegliere il proprio partner a qualunque età abbia. E quindi noi ce l'auguriamo. Intanto noi ci ascoltiamo a Safford Avidad, One Day. I don't cry, I don't think about

questa era nuovamente Alicia Keys, Girl on Fire, CRM, Happy Wake Up. Leggevo una notizia sconcertante che volevo condividere con voi. Perché pensate che il più grande collezionista di Barbie dovrebbe essere magari una donna appassionata appunto di questo bellissimo oggetto e questo giocattolo appunto che ricorda l'infanzia? No, è un 41enne, Stanley Chlorolite, e che è praticamente titolare di una ditta di pulizia, iniziata a collezionare Barbie nel 1997, ora ne ha quasi 2000, ogni mese aggiunge una media di 20 bambole al mese alla sua collezione, spesso pezzi pregiati. L'unico limite appunto è lo spazio nella sua propria casa, e però la Stanley ha riempito 4 stanze e ne rimangono solo 3 a disposizione, ma l'uomo non esclude di incollare al soffitto se proprio finisse lo spazio. Adesso Claudio Baglioni. Io mi nascosi in te, poi ti ho nascosto da tutto e tutti per non farmi più trovare. E adesso che torniamo ognuno al proprio posto, liberi finalmente non saper che fare. Non ti lasciare è una colpa, ho fatto male per non farlo alla tua vita. Tu eri in piedi contro il cielo e io così dolente mi levai imputato al satellite. Chi ci sarà dopo di te, respirerà il tuo pensando che sia il mio, io e te, che facemmo invidia al mondo, avremmo vinto mai contro un miliardo di persone. È una storia da buttare, sapessi andarci. Di me CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Put your hands up. You know, Leo D. Que hola mi gente. Mami, tú sabes la talla que yo uso. Ando con Valenciano y ando con el Caruso. Mira, come on baby, move it slow. Shake your body with my flow. Come on baby, move it slow. Shake your body with my flow. Come on baby, move it slow. Shake your body with my flow. It's so hot on the floor. Put your hands up. Arriba todo el mundo, dice. Esta noche se está calentando. Esta noche tú y yo, mami, nos vamos echando. Esta noche se está calentando. Vamos, nena. Esto es fiesta. Con la mano aplaudiendo a los cubanos. E questi erano Caruso e Valenciano con Mami Fit Leo a CRM Happy Wake Up. Due grandi nostri compatrioti, no? Con cittadini cefaludesi che stanno avendo grande successo non solo qua a Cefalù ma anche altrove. E quindi magari ci avremo altro successo qua nella nostra radio, appunto sentiremo un altro loro singolo che a breve ci sarà, arriverà, e noi lo accoglieremo con un grande gioia, perché appunto siamo contenti che almeno i nostri artisti cefaludesi abbiano questo successo e magari anche in futuro, quindi magari spopoleranno in tutte le discoteche, magari, come anche quello è il successo che ha avuto Daniel Adomako, cantante 21enne di origini ghanesi che ha vinto la quarta edizione di Italia's Got Talent. Il concorrente ha infatti conquistato il pubblico da casa, che lo ha incoronato vincitore attraverso il televoto interpretando At Last, uno dei brani più famosi di Etta James. Secondo posto invece per lo humors nero del duo I Fratelli Lo Tumolo, che infatti mi hanno fatto morire dalle risate, veramente troppo simpatici. E medaglia di bronzo invece per il ballerino Roberto Carlisi. E Italia's Got Talent appunto chiude in bellezza una stagione fortunatissima. Il talent si è infatti aggiudicato la serata con un share del 30%, pari a 6.926.000 telespettatori. Pazzesco. Lo show condotto appunto da Belen Rodriguez e Simona Nicchiarico fatto così l'Unplane, con 9 vittorie su 9 settimane di programmazione, confermandosi l'edizione più vista con una media pari al 30,5% di share. Quindi veramente un successo anche loro, veramente, e non aspettato, perché comunque fanno sempre, ci sono sempre delle performance veramente divertenti, anche se già viste e riviste, però ognuno secondo me c'è sempre un talento e lo butta fuori quando nelle migliori occasioni. canzoni. E questa è un'occasione per tutti gli italiani, come anche in altri paesi, fanno appunto lo stesso show, quindi di talenti. E mostra quindi una particolarità di noi italiani, quello di essere allegri, di mettersi in gioco sempre e anche di sfornare, come si suol dire, dei talenti come questo, come Daniel Adomaco, e magari che vediamo appunto anche altri cefaludesi come l'anno scorso Pierangelo Gullo appunto vincere questa prossima edizione magari di Italia's Got Talent. Noi lo speriamo, noi talenti di Cefalù in ascolto, andate dai, non abbiate timore, non vergognatevi e fate vedere il vostro talento. Noi appunto, come poco prima, i DJ Caruso e Valenziano ne hanno parecchio di talento, lo stanno mostrando e lo mostreranno a tutti, quindi in bocca al lupo a tutti i nostri talenti. E continuiamo con la musica, Bruno Mars. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. When it's black hold yourself. Take a little time to feel it right before it's gone. You won't let go, but still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs. Yeah. And if this love just feeling, if this life was here, there's no time to be alone, alone. Yeah, I won't let you go. James Morrison, Won't Let You Go, a CRM Happy Wake Up. E ricordo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me: potete inviare un sms al 335 56 37 251, o telefonare allo 0921 92 32 92, oppure potete sentirci e vederci su internet al sito www.crmhappyradio.it, o siamo anche su Facebook. Puoi diventare fan della nostra pagina cercando CRM Happy Radio e cliccando mi piace, così anche lì potete interagire con me, potete richiedere la vostra musica o dialogare tranquillamente su, magari sugli argomenti che magari vi raccontiamo durante il programma. E vedo sempre su Facebook di solito, quindi sono amica di gruppi di cerca lavoro di qua, cerca lavoro di là, e vedo anche dei consigli su cosa dire ai colloqui, quindi non dire questo, dici questo e così via. Ma sembra che per una compagnia aerea cinese basta solo lavarsi, perché loro selezionano il personale basandosi sull'odore delle ascelle. Sembra veramente assurdo, però è così. I candidati devono togliersi camicia e magliette e farsi annusare da un addetto della compagnia aerea, e tutti i candidati che emanavano odore venivano scartati. Ovviamente erano richieste anche altre caratteristiche, però messe in secondo piano, secondo me, tra cui una visione perfetta, quindi una vista perfetta, ottima conoscenza dell'inglese e altezza massima di 1,87 m. Qualche candidato scartato a causa dell'odore ha polemizzato con i selezionatori, migliori e selezionatori, e le domande dei giornalisti hanno difeso però i loro particolari criteri di selezione, perché il nostro staff, dicono, lavora a stretto contatto con il pubblico e nessun passeggero vuole annusare le ascelle del pilota. Quindi questa è la loro giustificazione. Bene, è una selezione alquanto bizzarra, alquanto bislacca, come dice la nostra Barbara D'Urso. Però avviene, tutto ciò avviene e noi dobbiamo prenderne nota, mi sa. Ma intanto ascoltiamo i fan, We Are Young, per riscaldarci un po' l'estate. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Now I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast, 'cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. We'll be right back.

anche coloro che acquisteranno il corso in DVD intitolato Mangiamo Assieme. Si pensa appunto dal titolo che sia un DVD appunto di cucina, come adesso si trovano dappertutto, in cartolibreria, dappertutto. No, invece no. Questo DVD è stato prodotto in Giappone. È una soluzione a quei ragazzi, a quelle persone comunque che hanno problemi a trovarsi una ragazza e a conversare a cena durante un appuntamento. E si sa che le relazioni con le ragazze possono essere una cosa complicata per alcuni, portarle a cena fuori, magari offrire la cena, cercare di intrattenerle senza garanzia di riuscire ad essere divertenti e simpatici, quindi si trova in una situazione un po' di imbarazzo. Ecco, il DVD aiuta invece a prendere un po' prenderci mano appunto a una cena con una ragazza che tu ti trovi davanti. Ecco, infatti il DVD riprende diverse ragazze dell'altro capo del tavolo virtuale che vi intrattengono facendo quattro chiacchiere con voi mentre mangiano, e così anche lui si può abituare a intrattenere la ragazza che gli sta davanti. E l'idea è che anche voi stiate mangiando di fronte alla televisione, quindi è tutto immaginario, virtuale. E sono stati pubblicati diversi DVD che si distinguono soprattutto per il tipo di cucina che mangiano le ragazze. Il primo della serie è dedicato ad un esempio ai piatti tipici giapponesi. Appunto, il DVD è stato prodotto lì e quindi naturalmente il cibo doveva essere prima giapponese, mentre il secondo è inventato in ristoranti che servono piatti dai gusti più occidentali. Quindi anche il tipo di pietanze può dar modo a una diversa conversazione, un diverso approccio con la ragazza. Ecco, chissà quando arriveranno questi DVD qua per chi ha bisogno, magari anche per passarsi il tempo, anche per riderci un po' su, non solo per la soluzione a problemi un po' più grandi, anche per vederci su, è davvero una cosa graziosa, ecco. E quindi aspetteremo che arrivi qua anche in Italia un DVD del genere. Intanto noi ci ascoltiamo la nostra musica di CRM Happy Radio, che è più concreta, che si tocca con le mani, ed è pronto con questa Pitbull. Sexy, tell him, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Take advantage of the night, 'cause tomorrow I'm off to do battle, perform for a princess. But tonight I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna get you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight, and baby, I'ma make you feel so good. Might not get tomorrow. On top of your girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight, baby. I'ma CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Simpatici One Direction, Live While We Are Young, CRM Happy Wake. Un titolo un po' lungo, però la canzone è divertente e spensierata, come questi giovani ragazzi che si stanno avviando a un grande successo, appunto come band preferita da tutti gli adolescenti. E per ora appunto vediamo questi 5 o 4 ragazzi, forse sono 5, e li vediamo dappertutto e li sentiamo dappertutto, e anche noi di CRM Happy Wake Up appunto dobbiamo sentirli, li sentiamo con piacere, anche perché sprigionano quell'energia, quella simpatia che appunto è il nostro programma e quindi si contraddistingue per questo. Ma tra una notizia bislacca e l'altra parliamo anche di cultura, e c'è una manifestazione, ci sono degli eventi promossi dalla Fiumara Arte, la Fondazione Fiumara Arte, con il presidente nella figura di Antonio Presti, che ha posto Cefalù anche tra le sue mire appunto espansionistiche, parlando in termini storici, ossia sappiamo, forse conoscete l'Atelier sul mare, appunto l'albergo dove Antonio Presti ha esposto delle bellissime opere di arte contemporanea, e un po' anche nel territori appunto vicini, e dove possiamo ammirare quest'arte che cammina e che abbellisce appunto la nostra costa. E adesso quindi quest'arte può toccare anche Cefalù, e non solo nel con sculture o con quadri, ma anche con la poesia. E la poesia, appunto, che è arte, arte della parola, arte della nostra sensibilità, della nostra immaginazione. E il 23 invitiamo tutti, il 23 marzo, al Grand Tour della Poesia, che si svolgerà a Cefalù alle 18:30 nella chiesa di Santo Stefano, piazza Spinola. E saranno presenti poeti, oltre ai poeti nazionali e internazionali, anche i grandi poeti cefaludesi, perché abbiamo poeti cefaludesi di grande valore, e anche gli studenti che in questi giorni hanno partecipato al progetto, appunto, di scrivere una poesia con tema La Grande Madre o Ranni Madri, come si dice appunto in siciliano, e presenteranno e citeranno le loro poesie anche appunto qua a Cefalù alle 18:30 nella chiesa del Purgatorio, ecco, la conosciamo così, e ci saranno degli intermezzi musicali a cura dell'assemblea della scuola media Porpora. Poi ci saranno altri incontri nei mesi di aprile e di maggio, appunto sempre col tema la poesia, dove possono essere coinvolte appunto tutti, la cittadinanza, le associazioni, e avvicinarli tutti sotto un'unica parola, arte. E infine poi l'ultimo appuntamento, ma non ultimo perché poi sempre la grande figura di Antonio Presti ha sempre tante idee, tante possibilità di manifestazioni e di eventi, quindi però per adesso questo ciclo di eventi della poesia terminerà con il rito della luce della piramide, il 38esimo parallelo a Motta da Fermo, durante il quale si svolgeranno altri momenti di ascolto sotto la luce dell'arte. Infatti i ragazzi reciteranno alcuni componimenti poetici che hanno presentato magari nelle altre manifestazioni che si sono svolte in altri paesi, e li reciteranno all'interno della piramide, affiancati da altri artisti, aspettando il solstizio d'estate. E come di consueto, appunto, ogni anno c'è questo grande evento, appunto, a Motta da Fermo, e quindi anche Cefalù quest'anno parteciperà con grande partecipazione di ragazzi, studenti, ma anche possono partecipare chiunque, perché è interessato appunto a fare parte di questo bellissimo mondo dell'arte, della cultura e della poesia. Ma continuiamo noi, perché la nostra poesia è la musica, e quindi abbiamo Kelly Clarkson con What Does Kill You a CRM Happy Wake Up. Continuate a stare con noi con CRM Happy Wake Up, e con me, con Patrizia Curreri. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. What steps even lighter. Doesn't mean I'm over, cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. What steps keep it lighter. Doesn't mean I'm over, cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Trust me, myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. I'm alone. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutta ferita, delusa da te, da me, da quello che non ti ho dato. Per tutta la vita cercare un appiglio, l'autunno che passa, ma forse sto meglio, trovarsi per caso in un bar del centro e sentirsi speciale. Ma l'amore è distratto, l'amore è confuso, tu non arrabbiarti, ma io non ti perdono, delusa da te, da me, da quello che non mi hai dato mai. Da me, da te, da quello che non c'è stato mai. Era Noemi per tutta la vita, cioè ha detto ci sono sempre i momenti all'interno di CRM Happy Wake Up dove ci dobbiamo romanticizzare un poco, e l'abbiamo fatto adesso con Noemi, appunto un po' che parla dell'amore, dell'amore per tutta la vita, però appunto affrontando difficoltà e varie vicissitudini varie, ecco. Ma noi per magari affrontare il rapporto anche con i nostri figli magari diversamente, oppure interpretare le loro paure e le loro relazioni, ecco che ci affidiamo a Candida Levantino, che appunto è una grafologa che ci ha aiutato anche, che io appunto ho nominato spesso durante il mio programma, e che ci aiuta a capire un poco come siamo fatti, come sono fatti i nostri bambini attraverso i disegni, attraverso la scrittura. Adesso questa volta parliamo della paura della morte e la paura del contatto fisico, che sono entrambe paure che affiorano verso i 5-6 anni di età. La paura della morte o della malattia malattia e in genere insorge nel periodo della scuola primaria, quando in casa c'è la presenza di qualche parente affetto da una malattia cronica oppure delle indisposizioni di uno dei genitori. Il bambino si identifica con la persona ammalata e di conseguenza si sente lui stesso malato e fragile. Nel raffigurare la famiglia non userà il colore, nel disegnare la casa chiuderà ermeticamente sia la porta che le finestre. Un consiglio ai genitori è quello, da parte appunto di Candida Livantino, è quello che anche se esistono queste problematiche all'interno della famiglia, cercate di non far sentire a disagio il bambino e non spegnete in lui l'entusiasmo per la vita facendovi vedere tristi ed avviliti. Bisogna stare molto attenti ad affrontare subito il problema, perché crescendo questa paura può trasformarsi in ipocondria. Poi abbiamo la paura del contatto fisico. Questa paura, che solitamente insorge verso i 6 anni, è dovuta al fatto che il bambino nel periodo della prima infanzia è stato continuamente sbaciucchiato, soprattutto sulla bocca, da genitori e parenti. Il suo comportamento sarà improntato al ritroso, e il movimento che farà subito dopo aver ricevuto un bacio sarà quello di cancellarlo con la mano. Nel disegno ritrarrà i vari componenti della famiglia separati da una cornice o all'interno di stanze diverse, simili a degli scompartimenti. Un consiglio ai genitori, sempre da parte della grafologa, è quello di dimostrare a vostro bambino tutto l'amore che provate per lui, ma evitate quegli eccessi, sia verbali che comportamentali, che gratificano voi ma infastidiscono lui. Quindi sempre dosare un poco affetto e punire di affetto e anche magari rimproveri, quindi tutto nella norma, ecco. Quindi spero che questi consigli siano giusti e siano magari affrontati e presi con le pinze, e magari quindi rifletterci su anche un po'. E intanto noi ascoltiamo Madonna. L-U-V, Madonna. Give me all your love. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, oh. Trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh. I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? Whoa. My mind keeps saying, run as fast as you can. Corners of my mind, I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours, 'cause I keep coming back again for more. Oh, oh. Trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, oh. I know you know good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? Change, but you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a glove, girl, sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good but hurt so bad? Whoa, whoa. My mind keeps saying Mars, Troublemaker con Florida, ACRM, Happy Wake Up. E stiamo arrivando al termine del mio programma, e però intanto sto osservando che spunta un po' quel tiepido sole tra un po' di vento e l'altro, tra una nuvola e l'altro, e quindi oggi abbiamo fatto il nostro dovere, cioè abbiamo fatto spuntare il sole a Cefalù, e con la nostra musica, con il nostro divertimento, con la nostra solarità. Ma intanto noi ci serviamo un po' di Happy Hour. Dicono che tutto sia comunque scritto, quindi tanto vale che non sudi. Nasci da incendiario, muori da pompiere, dicono. Dicono che devi proprio farti fuori, se vuoi fare rock in qualche modo, che ti portiamo i fiori lì nei cimiteri. Già dentro l'happy hour, vivere, vivere costa la metà. Quanto costa fare finta di essere una star? Se soffri bene vinci il premio di consolazione, chi non salta